In realtà poi sono più i fattori, e i fattori sono sicuramente il tema della Garisenda e quindi i lavori delle varie infrastrutture, a partire da quell'infrastruttura che noi riteniamo la vita sindacale, le organizzazioni sindacali, importantissimo e prioritario, quindi il tram, perché risponde a quell'esigenza che crediamo noi è importante per la città e per la sua prospettiva. Pensiamo che sia importantissimo da questo punto di vista mettere al centro il trasporto pubblico locale. Infatti è partito un confronto, le mie richieste, e il confronto con l'amministrazione comunale, dove si mette al centro il trasporto pubblico locale. Sicuramente rispetto al tema che adesso abbiamo ripreso, ma più in generale rispetto al ruolo che il trasporto pubblico, un pezzo importante nella nostra città, nel nostro paese, ma guardiamo il nostro territorio, che riguarda poi quel servizio dedicato a quelle circa 100.000 persone che quotidianamente a Bologna, nella sua città metropolitana, utilizzano il trasporto. E quindi sicuramente un suo potenziamento, da questo punto di vista il messaggio lo indirizzo in modo particolare al governo in riferimento al Fondo Nazionale dei Trasporti, che viene sempre di più prosciugato e messo in discussione, così come guardando il nostro territorio c'è un aspetto importante che riguarda il tema della viabilità, che significa la prospettiva del tram, ma più nell'immediato anche là dove è possibile determinare delle soluzioni dal punto di vista tecnico-organizzativo sul territorio importanti. Io penso sempre che, ad esempio, e non è un esempio secondario, le corsie preferenziali oggi nella nostra città devono essere aumentate in numero di chilometri, perché il trasporto pubblico locale è determinante avere una velocità commerciale diversa da quello che è oggi. Le corsie preferenziali, a maggior ragione in questa situazione di difficoltà per effetto di N motivi che prima elencavo, devono essere determinanti, e quindi sollecitiamo e invitiamo l'amministrazione comunale a mettere in campo soluzioni che siano la corsia preferenziale. Non solo questo, è un esempio, ma credo che sia estremamente importante. Avete avuto notizia dei ritardi che stanno facendo gli autobus in questi giorni? Ma sì, la cifra indicativamente potrebbe essere circa tra una media di 10 minuti di percorrenza, ma dipende dai giorni, però in questo caso va monitorato con la massima attenzione. Questo è al momento ed è la motivazione per la quale è partito questo confronto con l'amministrazione, coinvolgendo ovviamente evidentemente anche l'IPE stessa, perché tutto deve essere in sinergia. Noi pensiamo che quindi le organizzazioni sindacali possano avere quel valore aggiunto in termini di proposte, di considerazioni, perché la vivono sul campo, utile poi a determinare delle soluzioni per il servizio, per il trasporto pubblico locale. Sottolineo nuovamente questo aspetto che è determinante, sempre per quel numero, a proposito di numeri di cui prima, che sono le 100.000 persone che utilizzano il mezzo pubblico, l'autobus in modo particolare, che sono queste circa 100.000 persone. Da più parti è stato sollevato anche il tema del numero degli autisti, è vero che mancano? Sì, è vero che mancano, che è un problema serissimo che riguarda tutto il territorio nazionale, questo sicuramente, ma più noi guardiamo, in questo caso siamo chiamati tutti, ognuno per il proprio ruolo, a cercare delle soluzioni affinché oggi qual è il problema maggiore. Questo, come sappiamo, è un pezzo integrante di Stato sociale, come noi diciamo sempre. Il nostro territorio esprime un valore aggiunto a differenza di altri territori, parlo di Bologna, città metropolitana, servizio erogato in termini di chilometri, in termini di vari fattori. Quindi il momento in cui non c'è la possibilità, il lavoratore, l'autista, il 23enne, 20enne che non esiste, non è presente, affinché sia disponibile a intraprendere un percorso di carriera quale il mestiere dell'autista. La motivazione principale è sicuramente quella legata alla retribuzione, nonché all'impianto normativo. Quindi noi cosa diciamo? Che bisogna investire oggi sul fattore lavoro. È importantissimo, certo, investire sui nuovi mezzi, sul nuovo parco mezzi e sulle sue infrastrutture, ma è altrettanto importante investire in questo caso sul fattore lavoro e quindi sulla retribuzione e sull'impianto normativo, perché il risultato, grande paradosso, è che questo si sta determinando di fatto di riflesso un taglio al servizio stesso, perché laddove non c'è l'autista per guidare l'autobus è chiaro che si determina che quell'autobus non è più in circolazione. Ad oggi vivere nelle nostre città, guardo Bologna, con uno stipendio di 1.000 circa 1200 euro in questo caso non è possibile, e il riflesso è veramente molto serio, perché ad oggi questo non c'è. Certo. Non c'è più la volontà di intraprendere questo percorso di carriera, che è un mestiere molto impegnativo come tanti altri certamente, ma questo lo è.